Io sono qui. Di Matteo Caccia. Prima compagnia, 23esima squadra e 2 anni di vantaggio sui miei giganteschi commilitoni che contribuivano ad accattivarmi ai loro occhi simpatia e rispetto. E poi ero persona acculturata sopra la media della camerata. Tutto ciò mi garantiva una specie di salvacondotto, una preziosa immunità contro i rischi derivanti da furti e scherzi. Mi chiamo Augusto, abito a Lecce, ho sempre fatto l'albergatore per una vita, adesso ho un ristorante qui a Lecce insieme a mia moglie. Ma io avevo talmente il terrore di questi 12 mesi da schiavo che preferivo non pensarci e continuavo a dirgli: quando sarà ora ce la farò, vedrai, ce l'ho sempre fatta, in fondo che saranno 12 mesi, no, non ci voglio pensare ora. Ho tutt'altre storie per la testa, figurarsi se penso a queste cose qui, no, lasciamo tutto in mano al destino, chi lo sa. Ma il destino arrivò puntuale e maledetto con la cartolina azzurra di chiamata alle armi per il 16 aprile, al 6° battaglione granatieri, guardie, distanza alla caserma Isonzo in Orvieto, Terni. E io partì. Ci sono delle età, che in teoria, ne parlavamo prima a mensa con Tiziano e Margherita, ci sono delle età della vita che sono comune a tutte, a prescindere dalla generazione, no? Per cui l'età in cui si comincia la scuola, che se abbiano 80 anni o che se ne abbiano 16 oggi, più o meno sono uguali. Certo, cambiano i frangenti, cambia la cultura, ma il modo di viverla, il primo giorno di scuola o il primo bacio, che se abbiano 80 anni e quindi lo si vive nel ricordo, o che se ne abbiano 15 e le si stia vivendo in questo momento, più o meno sono simili. No, perché alla fine l'uomo è fatto in quel modo lì, è fatto d'acqua, di cuore e di un po' di cervello. Ci sono però delle cose che in realtà non torneranno più. Ci sono delle età che sono state vissute in particolar modo dai maschi in forma fisicamente fino a quanto? Fino a 10 anni fa, direi. Sì, fino a 10 anni fa, che non torneranno più. Sto parlando del periodo di leva, dell'anno di militare, quello che è raccontato magnificamente da Pier Vittorio Tondelli in Pao Pao, di cui vi ho letto poche righe, che è un momento in cui lui, come avete sentito, riceve la cartolina e deve partire. Quindi quella cosa lì, l'arrivo della cartolina, il militare, anche solo i 3 giorni del militare, anche solo i 3 giorni sono una cosa che, poi magari il militare non l'hai fatto, come nel mio caso, però i 3 giorni sono una cosa che ti ricordi, che racconti e che condividi. E non appartiene questa puntata alla categoria del una volta si faceva il militare ed era meglio. No, semplicemente che una volta si faceva il militare e c'era una cosa che era comune a tutti. Oggi non c'è più, non è né meglio né peggio. Lo dico perché la storia di oggi, di Augusto, è una di quelle storie lì, che chi non ha fatto il militare o chi ha meno di 35 anni, direi, può solo ormai sentita raccontare. Sentirsela raccontare. Può solo andare da qualcuno che l'ha fatto e chiedergli: com'è stato il militare? Raccontami qualche episodio legato al militare, raccontami di quando ti sei imboscato al militare, raccontami di quando hai chiesto un aiuto per non farlo, o semplicemente di quando l'hai fatto. 349-238-6666, oppure se siete davanti a un computer, voi siete qui, @radio24.it. I vostri ricordi del militare, tutti quelli che l'hanno fatto ce ne hanno uno, un episodio particolare oppure un modo di vivere il militare che vi siete portati dietro. Quella di Augusto è una storia bella soprattutto per come è raccontata, perché lo sentite, cioè, ha un linguaggio che è un linguaggio di 50 anni fa, direi, ma che ha proprio nell'approccio alla storia un approccio che è quello di una storia d'altri tempi. Quindi era molto più lunga la storia di Augusto, l'abbiamo dovuta tagliare, però racconta, ripeto, di un tempo che nel bene o nel male non tornerà più. La pigrizia in quegli anni mi possedeva integralmente, neppure gli studi universitari mi ero scelto da solo. Era stato mio padre a scegliere per me. Certo com'era che la sua laurea, conseguita nel lontano 1930, avesse tracciato i destini di una dinastia di ingegneri. Invece, dopo il biennio, con nessun esame all'attivo, mio padre, sempre più torvo ed impotente, mi pose bruscamente davanti 3 alternative. La prima, scegliermi subito un lavoro, proposta che ritenni sconveniente. Seconda, iscrivermi a economia e commercio. Terza ipotesi, sbrigare il servizio militare, prima o poi bisognava cavarsi il dente, tanto valeva farlo subito. Optai per questa soluzione, che aveva almeno il pregio di essere interlocutoria. La raccomandazione di un amico generale valse a risucchiarmi da Armaditaggia, dove la cartolina mi destinava mitragliere, alla più vicina guarnigione di Orvieto. Mi ritrovai con il mio 1,80 m di altezza, poco più che una mascotte tra i granatieri di Sardegna. L'impatto è stato traumatico all'inizio, poi mano a mano però sempre ho sdrammatizzato, fino quasi a farla diventare un'esperienza sportiva, quindi divertente. Tant'è vero che ho lasciato poi alla fine del CAR, quando ho praticamente finito il militare, mi è rimasta una certa nostalgia del servizio militare. Prima compagnia, 23esima squadra e 2 anni di vantaggio sui miei giganteschi commilitoni contribuivano ad accattivarmi ai loro occhi simpatia e rispetto. E poi ero persona acculturata sopra la media nella camerata. Tutto ciò mi garantiva una specie di salvacondotto, una preziosa immunità contro i rischi derivanti da furti e scherzi. Divenni amico fin dai primi giorni del non incensurato Paride Canepari, un duro della bassa milanese, l'unico che avrebbe potuto permettersi di uscire nell'oscurità della notte col presentatarm del picchetto, tutto avvolto nel pastrano preso in prestito al maggiore addormentato. Riflettevo, mentre mi mostrava i ritagli di cronaca nera che lo celebravano protagonista, che in qualsiasi altro momento l'avessi incontrato, in qualsiasi altra parte del mondo che non fosse quello squallido stanzone di caserma, l'avrei avuto nemico. Faceva parte all'epoca della mia squadra un giovanotto romano, laureando in giurisprudenza, si chiamava Federico Bruno. Divenuti subito amici, godemmo entrambi delle simpatie del nostro coetaneo, tenente Mascellaro. Alla partenza per Orvieto, il genitore aveva infilato nella mia valigia un testo di diritto pubblico e quasi in omaggio alla sua perseveranza, un pomeriggio me ne stavo sdraiato sulla brandina, arrancando nel bel mezzo del primo capitolo, mentre Federico faceva sfoggio di cultura forense. Spettatore di questo inedito quadretto, il tenente ebbe un'improvvisa intuizione. «Voi due», disse mulinando l'indice come un tergicristallo, «farete lezione alla truppa». Da prima, sinceramente, mi schermii, poi presi la cosa con filosofia e mi preparai a diventare assistente del professor Bruno. Ma non era professore lui, quello lì era un modo ironico di chiamarlo professore, perché era, come me, era studente. Eravamo entrambi stati incaricati di fare lezione alla truppa di materia legale. Lui naturalmente faceva legge e io facevo economia e commercio. Allora io ironicamente dico, mi preparai a diventare assistente del professor Bruno. Per altri versi però l'incontro con Federico Bruno fu determinante, tanto da condizionare i successivi 2 anni della mia vita. Rispetto a tutti gli altri militari, Federico aveva un vantaggio inestimabile. Abitava a Roma in un palazzo impregnato di storia patria. Mussolini lo aveva costruito nel 1930 per assegnarlo agli invalidi della Prima Guerra Mondiale. L'appartamento di Federico non arrivava però da alcun merito, neppure ancestrale, eppure gli consigliava e gli consentiva di abitare gomito a gomito con Stelvio Lombardi, cieco di guerra, cavaliere di Vittorio Veneto, dal quale per di più era stato palleggiato sulle gambe nei primi anni di vita. Ai grandi invalidi, infatti, era concesso di scegliersi un accompagnatore militare di provata fiducia e Federico era un predestinato. Unico adempimento cui era tenuto era vestirsi da militare una volta al mese e presentarsi alla caserma a riscuotere il suo modesto mensile. Come avevo immaginato, Stelvio Lombardi aveva nel condominio più di un conoscente nelle sue identiche condizioni e titolare del medesimo privilegio di richiedere un accompagnatore senza averne veramente bisogno. Per questo buttai giù al mio amico una certa proposta. Federico si mise all'opera immediatamente e in pochi giorni, del tutto imprevista, si materializzò la figura del mio benefattore. Il commendator Damiano De Marchi, cieco di guerra, residente al terzo piano. Niente di nuovo sul fronte occidentale. La notte cade su di noi. La pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai, ma che cosa? Per capire di che generazione sia un uomo, basta chiedergli se sa cosa siano i tre giorni. Di solito se risponde una cosa tipo che sono il periodo in cui non può fare l'amore con la sua fidanzata, vuol dire che è piuttosto giovane. Se invece vi risponde che era quel misterioso momento in cui insieme a tutti quelli nati nel tuo stesso giorno e nel tuo stesso luogo si veniva sottoposti a esami del sangue, test psicologici, palpazioni dei genitali, ecco allora avete a che fare con un ultra 35enne. I tre giorni non esistono più perché non esiste più il servizio militare obbligatorio. Quell'enorme parcheggio per giovani disoccupati che consentiva loro di spostare in avanti il momento delle grandi decisioni della vita e di solito aiutava i coraggiosi a prendere su e trasferirsi per un anno di studi all'estero, generalmente a Londra, per evitare di indossare la divisa. Chi non aveva le possibilità doveva passare un anno in una caserma a farsi dire che cosa doveva fare da caporali o da sergenti. Fare cose tipo marciare avanti e indietro in un cortile, rifarsi il letto, insomma non esattamente l'addestramento di un marine, ecco. Poi c'erano quelli che andavano in aviazione o nei carabinieri ed erano quelli che o ci provavano fortemente o avevano delle raccomandazioni. Perché è vero che ci si faceva di più il mazzo, però almeno ti pagavano e potevi evitare di finire a 1000 chilometri da casa. Augusto non mi sembra avesse un amore folle per la vita militare. Molto meglio i grandi invalidi della Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro rappresentavano plasticamente una forma di ribrezzo per tutte le guerre, quel ribrezzo che c'hanno tutti ma che a ricordarselo non fa mai male, o insomma più o meno va così. La vita di caserma però ha sempre avuto su di me, che al militare non l'ho fatto, un certo fascino. Soprattutto quelle pratiche tipo mettere i rospi è il nome che si dà ai nuovi arrivati, no? Ecco, prendere i rospi e metterli negli armadietti di metallo, inserire una moneta, fargli una cantare una canzone, trasformando quel mobile in un jukebox, oppure, che so io, far cadere saponette nella doccia e chiedere, sempre ai rospi, di raccoglierle per favore senza poi fare nient'altro. Però creando quel momento di suspense che i nonni usavano sempre per divertirsi. O ancora decidere che le pulizie del water oggi le fa al tal dei tali, ma senza usare lo straccio, usando lo spazzolino da denti. Ecco, mi sono sempre sembrate delle divertenti iniziative, utili ed educative. A 18 anni dicono che sia giusto avere a che fare con gente che ti mette i piedi in testa, perché non è che poi la vita sarà lì a coccolarti e quindi è meglio abituarci, sì. Ecco, il militare più o meno serviva a quello, a forgiare le nuove generazioni nel ferro e nel fuoco. È proprio per quello che mi sono sempre guardato bene da rischiare di finirci dentro, in una caserma, nel ferro e nel fuoco. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them. Siccome mi divertivo a volare con lo scooter, ho pensato bene. Ho pensato bene di spaccarmi un femore il giorno dopo essere arruolato. Congedo istantaneo. Ciao, 349-238-6666. Chi non è buono per il re. Cosa vuol dire? Questa frase non la capisco. Chi non è buono per il re non è buono nemmeno per la regina. Verme chi non l'ha fatto. Vabbè, verme chi non l'ha fatto lo capisco. Ma chi non è buono per il re non è buono. Ah, ma è una roba di virilità. Ma grandissimo, l'ho capito adesso. Perché chi non è buono per fare la roba per il re non è buono nemmeno per la regina. 349-238-6666. Ero uno dei 6 marinai di leva di servizio a Milano. Ci guardavano come marziani. Cioè c'erano 6. Ah, marinai, certo, non avevo letto, non militari. Dei 6 marinai. E dove eravate? Ai Navigli, distanza ai Navigli. Non immagino, alla Darsena probabilmente. Tutto perché Augusto, appunto, qualche anno fa, diversi anni fa direi, è stato assistente, come si dice, assistente di un cieco di guerra. Pronto Augusto? Accompagnatore di grande invalido. Accompagnatore di grande invalido, perdonami, io avevo detto assistente di un cieco di guerra, che diciamo è la versione soft di accompagnatore del grande invalido. Come stai Augusto? Bene, grazie. Dove ti trovi adesso? Adesso a Lecce. Perché tu non sei di Lecce, però mi dicevi prima, giusto? Non sono di Lecce, no. Vengo dal zona Chianciano, Montepulciano. Dove hai vissuto praticamente fino a ieri, perché ti sei trasferito quando? 4 anni fa? Diciamo fino a 4 anni fa, 4 e mezzo. Sì. E poi cosa è successo? Poi è successo che siamo venuti a Lecce, io e mia moglie, abbiamo fatto questa scelta di vita. E cosa fate a Lecce? A Lecce abbiamo un ristorante. Ma scusami... Che abbiamo inaugurato un anno e mezzo fa. Ma scusa Augusto, tu sei toscano, giusto? Sì, è giusto. E tua moglie anche? Mia moglie no, mia moglie diciamo che è nata a Milano, quindi ha passato gran parte della vita a Milano. Ok, però insomma no. non siete di Lecce, perché siete nati a Lecce? Decisamente no. Cioè, diciamo per essere precisi, mia moglie ha delle radici leccesi, perché i genitori di mia moglie dopo 40 anni di Milano sono rientrati a Lecce. Ah, ok, quindi c'era una radice. Una certa estate siamo venuti a trovarli, era un momento particolare in cui abbiamo fatto poi una scelta di fermarci qui. Senti, invece Augusto, torniamo a quegli anni. Quanti anni fa sono esattamente che hai fatto il militare? Dunque, subito facciamo il calcolo, perché avevo fatto il liceo classico, quindi 18 anni più 2, 20. 20? Sì, 20 anni avevo allora, e quindi del 38 andiamo a 58-59. Ok, quindi prima degli anni 60, cioè proprio fine anni 50. Proprio a cavallo. Che cosa ti ricordi del commendatore Damiano De Marchi, di cui eri accompagnatore? Cosa dovevi fare esattamente per lui? Guarda, entrambi questi ciechi di guerra erano dolcissime persone, talmente disinteressate tra l'altro, che... pagavano perfino qualcosa per avere noi accompagnatori. Noi poi quelle 2 lire che prendevamo una volta al mese li passavamo a loro decisamente, ma era semplicemente un indennizzo per le poche lire che anche loro spendevano per noi. Ma esattamente tu cosa dovevi fare per loro? Dovevi portargli la spesa? Dunque, dovevi accompagnarli da qualche parte? Bisogna dire che in teoria noi avremmo dovuto accudire loro dalla mattina alla sera. Sì. In realtà queste persone avevano diciamo i loro familiari a disposizione, quindi nel calore delle loro famiglie non avevano bisogno. Ho capito, insomma noi. Ci stavano comodi già a casa loro, però gli era riconosciuto l'accompagnatore, questa è la sostanza. Avevano diritto all'accompagnatore, come avevano richiesto, come l'uno dei due aveva richiesto il mio amico Federico Bruno, certo. L'altro per sua intercessione aveva chiesto. Senti, e Federico Bruno che fine ha fatto? È quello che vorrei proprio sapere, perché l'ho cercato varie volte e purtroppo non sono riuscito. Non siamo riusciti a trovarlo? Ad avere notizie sue. Ma allora, diamo qualche elemento, magari qualcuno che ci permette di risalire. Posso aggiungere una cosa dolorosa? Sì. Io ho fatto una ricerca anche del tenente Macellaro, di cui noi eravamo molto amici, sì. E dalla madre ho saputo che nel corso di una rapina lui, che era orefice, purtroppo è stato ucciso. Mi dispiace, quindi diciamo, uno sappiamo... Era una persona eccezionale. Però questo Federico Bruno invece mi dicevi prima fuori onda che ti piacerebbe rincontrarlo, come spesso capita, no? Che è un piacere rincontrare con Militoni. Spero infatti che sia, diciamo, che tramite questa trasmissione, chissà che non abbia la bella sorpresa stasera di dire: guarda, ciao, sono Federico. Quanti anni hai tu, Augusto? Così capiamo anche quanti anni può avere Federico. Ne ho 74. 74. Hai la voce di un ragazzino, però. Senti, allora speriamo che Federico Bruno, o qualcuno che lo conosce, o qualche nipote, che Federico Bruno, che è stato militare in quell'epoca e che è stato accompagnatore di un grande invalido di guerra, magari vi rimette in contatto, come è già successo che delle persone che si conoscevano grazie al programma si siano ritrovate. Augusto, io ti ringrazio per la chiacchierata piacevole e per il racconto, come al solito, e in bocca al lupo per tutto. Non c'è di che, grazie molte a te di tutto, ciao. Ciao, grazie mille. 349-238-6666, qualcuno scrive: 12 mesi senza un bidet, è stato un incubo. Voi siete qui. Augusto, nella foto che ci ha mandato è insieme a una donna, immagino che sia sua moglie, e sono a Lecce, direi. così a naso. Credo che sia una Lecce, è in bianco e nero purtroppo la foto perché non si è riusciti a stamparla a colori, ma c'è un Duomo e c'è una luce che è proprio la luce del sud, della Puglia, e ho deciso che sono a Lecce davanti al Duomo di Lecce. Lui ha su una giacca bellissima, sembra una foto da altri tempi, in realtà è una foto moderna perché le biciclette sono moderne e c'è un trenino turistico alle sue spalle, e Augusto ha i capelli bianchi, questa giacca pseudo militare, e sembra veramente uscito da un film degli anni 60. Imboscarsi, verbo riflessivo, addentrarsi e occultarsi nei boschi o nel fitto di una macchia. Figurato, ottenere l'esonero o un'assegnazione non rischiosa eludendo le leggi relative al servizio militare, specie in tempo di guerra. Scherzoso, trovare un'occupazione di scarsa responsabilità. Etimo, derivato di bosco, col prefisso in. Data, secolo XIV. Mentre fuori continua a nevicare, il Papa si dimette, sono le 16:36 minuti, questa è Radio 24, qua si continuano a raccontare storie. Oggi è la storia di Augusto e del suo rapporto col servizio militare, che veramente crea delle fratture. Non c'è nessuno che scriva, boh, sì, è andata. No, sono tutti, o mi ha fatto schifo o lo rifarei subito. Come scrive Enrico Armiere, Sesto 86, Cormons, io ripartirei domani per il servizio militare. E poi ancora, uscivo la mattina alle 8 per prendere il pane con un camion enorme per portare indietro 3 ceste di pane, ma prima lo distribuivo ai vari amici ancora caldo. Tanto dolore essere di rientro, mi scrive. Mi avete fatto tornare in mente, scrive qualcuno che non si firma e vi spiego il perché, anzi lo spiega lui. Mi avete fatto tornare in mente il primo amore durante la leva. Non mi firmo che mi vanno ancora cercando il padre e lo zio dopo averla lasciata. E invece una cosa che purtroppo non abbiamo fatto in tempo, non facciamo in tempo a sentirlo al telefono perché non facciamo in tempo banalmente, ma poco fa mentre leggevo all'inizio della puntata un pezzo tratto dal romanzo Pau Pau di Pier Vittorio Tondelli, che parla del militare e che è chiaramente come tutti i romanzi infarcito di persone e personaggi, o meglio di personaggi che spesso sono ispirate a delle persone vere e reali, dei quali di solito, così a uso dei romanzieri, si cambia il nome. Ebbene, mentre leggevo quel pezzo ci ha telefonato al centralino di Radio 24 una persona che è un personaggio di questo libro, che è esattamente il tenente di cui parla Pier Vittorio Tondelli nel libro. Il pezzo che vi ho letto non parla di lui perché parla della partenza, ma lui è all'interno del libro. Nel libro si chiama Emidio Stravella, è il tenente Emidio Stravella, che nella vita reale ha un altro nome, o meglio ha un altro cognome, giusto? Il nome è sempre Emidio. Niente, lo ringraziamo per aver telefonato e leggetevi Pau Pau, anche se non l'avete fatto il militare, se avete fatto il militare, ma soprattutto se non l'avete fatta. C'è uno che mi scrive, Fornella, non so che nome sia. Io non ho giurato e l'ho pure scritto sul foglio matricolare. Questa è una roba, chiaramente, un linguaggio tecnico. Non aver giurato vuol dire che non ha fatto giuramento, e va bene. Non sapevo si potesse scegliere di non giurare. E l'ho pure scritto sul foglio matricolare, immagino che sia un registro sul quale si scrive tutto il curriculum del non so niente, non parlo di cose che non so, perché parlo di cose che non ho fatto. Ho solo il racconto di mio padre che durante il giuramento a Roma è svenuto, non a Roma, a Piacenza, dov'era, è svenuto per il caldo. Paolo VI, che sembra una battuta questa. Ah no, Paolo VI 98, perdonate, VI 98 sarà stato il battaglione. Dopo la naia vado al bagno ovunque, mangio qualsiasi cosa e rifaccio il letto meglio di mia moglie. Ha scritto un messaggio, una vera e propria mail sul profilo Facebook invece Claudio. È una mail bellissima che ho ripostato così la vedete meglio e che vi voglio leggere, che dice così. Caro Matteo, non so se questo si possa chiamare imboscamento, ma te lo racconto comunque. Quando facevo il servizio di leva, mi mancavano due materie e la tesi per laurearmi. E pertanto mi toccava di diritto l'avvicinamento alla mia sede universitaria, cioè Catania. Dopo il CAR ad Avellino e un'assegnazione a Trani, trascorsi 3 mesi, dopo un po' di sollecitazioni, finalmente mi danno quello che mi tocca. Il mio obiettivo era quello di trovare un posto dove potessi imboscarmi a studiare e poi redigere la tesi di laurea. Il materiale era già stato approntato in precedenza. Scartata la fureria, dove non c'era mai un momento di pace, insieme all'amico Totò, scoprimmo 2 persone che sia di mattina sia di pomeriggio venivano chiamati fuori e sparivano. Erano gli addetti alle latrine. Dopo un breve conciliabolo e dopo aver trovato Carmelo, maresciallo compiacente che ci forniva le chiavi della sua stanza, io e Totò stupimmo il capitano proponendoci come volontari per questo servizio che tutti rifuggivano. In verità, dopo aver espletato il nostro servizio in una mezz'oretta, ci barricavamo nella stanza del maresciallo e iniziavamo a studiare furiosamente, privi di distrazioni o di persone. Il massimo fu raggiunto con Totò che doveva dare inglese e io analisi economica, io bravo in inglese e lui preparato sui testi di Piero Sraffa. Dopo un caffettino fatto con il fornellino elettrico, si studiava come forsennati, sia di mattina sia di pomeriggio, dandoci dentro. In quegli anni ho dato le due materie e ho preparato la tesi. Mi sono congedato il 6 di dicembre e l'indomani tornavo a Catania per laurearmi. Il top dell'ottimizzazione raggiunto pulendo i cessi, ma ne è valsa la pena. 16 military wives, 32 softly focused brightly colored eyes, staring at the natural tan, 32 gently clenching wrinkled little hands. (349) 238 6666. Per non fare il militare e imboscarmi in ospedale, mi sono fatto operare di appendicite. Alessandro Michelotti. Appunto, questo è uno, e poi c'è addirittura i due estremi sempre: o lo amo o lo odio. Alvaro, ho chiesto ai vertici della Folgore, dove sono stato, di fare degli aggiornamenti 20 giorni all'anno. È troppo bello. Cioè, quindi immagino che Alvaro, 3 settimane dell'anno, non so se separate o unite, torni in caserma a fare degli aggiornamenti. Come delle vacanze. Cosa fai? Cosa fai ad agosto? Ma guarda, io vado giù alla Folgore. Niente, facciamo 3 salti. Facciamo un po' di corsa. Cioè, 3 salti, no? Immagino, altro che 3 salti. Adesso mi arrivano i messaggi quelli della Folgore. Imbecile, altro che 3 salti. Saltiamo in testa, facciamo un culo così. Poi ancora, 8 mesi alle terme militari. Una vacanza, lo rifarei, Alessandro. Mi ha scritto invece un messaggio privato su Facebook. Perché gliel'ho chiesto, non perché me l'abbia scritto. Cioè, perché mi ha mandato un messaggio su Facebook, Marco. Che mi dice, io lo sto facendo adesso il militare, e nella foto del profilo è vestito da militare ed è al volante. Gli ho chiesto che cosa fa, eccetera, eccetera, perché poi una cosa che mi incuriosisce è che cosa fai nella pratica? L'addestramento, poi quando finisce l'addestramento, che ruoli hai? Lavori d'ufficio, lavori... non lo so. Lui mi scrive, sto facendo l'anno di militare... un sostitutivo della leva, più o meno, e ho scelto di farlo per vedere che possibilità ci potevano essere. Mi manca 1,5 mesi al congedo, faccio varie cose, soprattutto servizi di caserma, mi scrive, più o meno. A volte è più la noia che la stanchezza, tranne nei periodi di addestramento come il modulo K. Però qua oggi avrò detto almeno di 50 cose 48 che non conoscevo, o quando ho fatto la preparazione per i casta. Anche se non ho fatto la gara poi, niente, ragazzi. Secondo me è meglio se chiudiamo, perché veramente parlare di cose che non si sa va bene, ma non fino a questo livello. Io sono una donna, 36enne ormai, ormai 36enne, con laurea e compagno a carico. È un'immagine orribile questa, scusami, eh. Cioè, il compagno a carico non capisce. Sembra sto poveraccio a casa e tu torni a casa. Allora, oggi, fatto un cazzo come al solito, eh? Vabbè, dai, avanti, prepara la cena almeno. Compagno a carico, all'università ero la solita tipa pseudo alternativa, poi ho fatto il militare per lavoro. È stato decisamente il periodo più spensierato e bello della mia vita. Tornerei indietro anche a piedi e scalza, ma non sarebbe più la stessa cosa. I bei tempi andati, grazie a Stefano D'Andrea, Paolino Corleone, Tiziano Bonini e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Augusto, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Andrea, dalla provincia di Terni, e la storia di domani è la mia e parla della mia audizione per il film di Pinocchio di Benigni. Questa è la mia storia ed io sono qui.